America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, Marchionne, Sergio Marchionne e un signor nessuno o è qualcuno in America. Sentiamo due o tre punti importanti della puntata di ieri. Marchionne in America non è nessuno. La ferrovia passava attraverso la zona industriale. Oramai questo è un binario morto. Ecco, vi avevo detto che avrei invitato ai microfoni di America 24 Federico Rampini, Giovanna Botteri e Gualberto Ranieri, il portavoce della Chrysler, e sono qui con me in linea. Cominciamo da Federico Rampini. Buongiorno Federico. Buongiorno. Ecco, allora Federico, ma il signor Marchionne in America è un signor nessuno o è un signor qualcuno? La sua figura in America è relativamente banale, è un manager come ce ne sono tanti. Marchionne non ha fatto altro che adottare, applicare a un'azienda italo-americana ormai, cioè Fiat Chrysler, dei metodi di management che in America usano tutti. Federico Ranieri, nella sua lettera aperta, dice che tu dici quello che dici perché sei un giornalista schierato. Io mi considero come persona una persona schierata, nel senso che mi riconosco più nei problemi dei lavoratori dipendenti, che siano quelli della Chrysler, della General Motors o della Fiat in Italia, che non invece nella vanità di questi chief executive che, non contenti di avere tanto potere, di guadagnare molto, poi si offendono se per caso uno mette in dubbio che la loro visibilità sia uguale negli Stati Uniti e in Italia. Ecco Federico, vorrei sentire Gualberto Ranieri, responsabile delle comunicazioni della Chrysler, anche lui con noi qui ai microfoni di America 24. Ecco Ranieri, buongiorno intanto. Federico Rampini ha confermato quello che ha detto in televisione, cosa che l'ha portata a scrivere una lettera per puntualizzare, per dissentire da quello che ha detto. E allora? Per quanto riguarda Federico Rampini, affermare in televisione Marchionne in America non è nessuno, diciamocelo chiaramente, non è tanto un'opinione, è una cosa che si può contestare con dei fatti. Tu hai fatto riferimento a 60 Minutes, che è il settimanale di news più importante qui negli Stati Uniti, ma poi ci sono appunto la copertina di Time e tanti altri articoli, tanti altri premi che sono stati assegnati a Marchionne nel 2010-2011. Questi sono fatti. Ecco, Ranieri, però Rampini dice che in fondo di manager come Marchionne ce ne sono a migliaia in America. Ma punto primo, la task force di Obama cercò in giro per il mondo dei manager disposti a guidare la Chrysler. Nessuno si presentò. In questi quasi tre anni Chrysler ha realizzato una serie di obiettivi, ha ripagato tutti i prestiti con il tesoro americano, il governo canadese, le vendite mese dopo mese sono in crescita, sono stati assunti oltre 6.500 dipendenti in questi tre anni scarsi e i risultati si vedono. Ecco Federico, we agree to disagree, si dice in America, direi chiudiamola qui, non vi trovate d'accordo e in modo molto civile direi. Passiamo a un altro aspetto, una cosa che mi ha colpito che in America però Sergio Marchionne è stato attaccato dai repubblicani ed è stato attaccato perché secondo loro rappresentava la sinistra, rappresentava una posizione vicina a Barack Obama. Da noi invece in Italia succede esattamente il contrario, c'è una dicotomia transatlantica così un po' strana e perché? Come si spiega? In America abbiamo una destra molto più radicale della destra europea. Da 30 anni la destra americana, ad esempio, persegue il disegno di demolire il sindacato. E c'è riuscita, nel senso che ci sono degli stati negli Stati Uniti, dall'Alabama al Mississippi, dove ci sono delle leggi antisindacali che in Europa neanche un premier di destra come Angela Merkel o Sarkozy o David Cameron oserebbe mai proporre al suo paese. Quindi è vero che l'asse politico americano è spostato talmente più a destra che uno come Marchionne farebbe fatica a riconoscersi perfino nella destra americana, nel senso che lui in America col sindacato metalmeccanico ha un rapporto, mentre i repubblicani se potessero lo metterebbero fuori legge il sindacato metalmeccanico. Ecco, passiamo a Giovanna Botteri, corrispondente del TG3 da New York per la RAI. Ha fatto un lungo servizio da Detroit, molto articolato, che è andato in onda su Presa Diretta. Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Ecco Giovanna, vorrei fare ascoltare un piccolo stralcio di un'intervista, di una chiacchierata che hai fatto con degli operai della Chrysler. L'anno in cui ci hanno diviso in due categorie. E io lo dissi ai nostri rappresentanti sindacali che una scelta del genere sarebbe stata la morte del sindacato industriale. È uno schema ideato apposta per annullare la solidarietà tra i lavoratori. Non possiamo lottare contro Marchionne se ci accoltelliamo tra di noi, se una categoria ottiene qualcosa ed altri no. È davvero una situazione terribile. Questo è uno dei punti su cui Egualberto Ranieri ha sollevato delle eccezioni. Ecco Ranieri, lei su questo ha avuto dei problemi, ha addirittura scritto una lettera. Perché? Il problema nel servizio di Giovanna Botteri riguarda di nuovo alcuni fatti, alcuni eventi del 2008, 2009 e del 2011. Mi riferisco in particolare a quello che la task force del presidente Obama realizzò insieme da una parte con il sindacato. Qui negli Stati Uniti esiste un solo sindacato, la UAW, che riguarda il settore metalmeccanico e quindi l'industria dell'auto. Allo stesso tempo sempre la task force di Obama raggiunse tutta una serie di altri accordi che riguardavano la rete di vendita, i concessionari, che riguardava gli obbligazionisti e così via. Tutte cose che appunto furono decise dalla task force di Obama e che invece nel servizio vengono attribuite a Fiat e dunque alla gestione di Marchionne, e questo non è corretto. Questo è veramente prendere in giro i telespettatori e le telespettatrici. Giovanna, qui c'è un'imputazione, diciamo, di tipo fattuale. Ti sembra che la critica di Ranieri abbia un fondamento o no? Il punto di vista era esclusivamente Chrysler Fiat. Io non mi sono occupata dell'industria automobilistica, dello zar dell'auto, del salvataggio di Obama. Ho guardato soltanto quello che è successo in Chrysler Fiat ed è per questo che gli operai parlano di Marchionne, perché parlano dal loro punto di vista. Però proprio su questo appunto la critica di nuovo di Ranieri è che appunto la visione di Detroit è una visione, diciamo così, parziale e che non è, che secondo lui non è credibile, e dice scoprire, riferire quella che l'immagine di Detroit non interessa quando si hanno tesi predefinite da diffondere. Ecco, questo è un punto chiave. C'è una tesi predefinita da diffondere, cioè che gli operai a Detroit sono sulle barricate come lo sono stati gli operai iscritti al sindacato della Camusso in Italia, oppure erano delle piccole minoranze da tutte e due le parti? Allora, io sono partita senza tesi precostituite, anzi devo dire la verità che da italiana che vive negli Stati Uniti noi siamo abbastanza orgogliosi di Marchionne, perché comunque un italiano che riporta credibilità e lustro alla nostra capacità di fare le cose e di muoversi, quindi non c'era nessuna tesi precostituita, e infatti nel racconto di Detroit ci sono tante voci, ci sono le voci che dicono che Marchionne è il salvatore, ci sono le voci che dicono che Marchionne non è il salvatore, ci sono le voci degli operai evidentemente all'interno di Chrysler, tante idee diverse come ci sono nelle fabbriche Fiat in Italia. Ecco Giovanna, per chiudere, ma Marchionne in America è un signor nessuno o conta qualche cosa? Io credo che un CEO di Chrysler Fiat, sono appena usciti gli ultimi dati, 34% in più di vendite, credo che sia something more than nobody. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, i Jackson 5 tornano insieme per un tour americano. Vi ripropongo Shake Your Body. Do you know that I want you? You walk around this town with your head on a pillar's sky, and you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance.